Le tue app dal display. Solo a gennaio gamma Polo è tua a partire da 10.900 euro con tasso zero, TAI 2.20. Anche domenica 22. Info su Volkswagen.it. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. No, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. E i film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. No, volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, cioè per questo mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nutezzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of, that's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a Indovina chi viene a cena, la trasmissione che parla di cucina, ricette, ma soprattutto di migrazione, identità. Parliamo di un libro, Pop Palestine, viaggio nella cucina popolare palestinese, edizioni Stampa Alternativa. Un libro uscito nel 2016, molto interessante, perché è un libro che sembra un libro di ricette, in realtà è un libro divertente, affascinante, molto anche addentro alle questioni di storia, di politica della Palestina, attraverso un viaggio fatto da alcune ragazze, delle autrici. Una di loro è con noi stasera ed è Fida Abouhamdia. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. È una blogger, una cuoca, una chef di origini palestinesi che con Silvia Chiarantini ha scritto questo libro, che è appunto un ricettario, ma è anche soprattutto un diario di viaggio, anche fotografico, che racconta la Palestina attraverso le ricette della sua tradizione gastronomica, da Hebron, passando per Betlemme, Ramallah, Gerusalemme, fino a Gerico, Nablus e poi anche Gaza. Voi insomma fate attraverso questo viaggio, ci portate per mano nelle vie delle città palestinesi, attraverso i mercati, le spezie, nelle case delle cuoche palestinesi che vi hanno anche accolte tra i fornelli e i piatti palestinesi. Tra l'altro avete incontrato, e ne parleremo, anche delle difficoltà, come è normale che sia, una terra travagliata come quella palestinese. Vi dà innanzitutto come è nato questo libro? E questo libro è nato dopo un viaggio di quattro amici fiorentini. Siccome c'era un cuoco tra di loro, una fotografa, un'appassionata di cucina e un altro amico, hanno detto: vabbè, facciamo una cosa sulla cucina palestinese. E ci siamo incontrati, abbiamo girato assieme, siamo diventati amici. E prima del libro è nato questo film, Pop Palestine. È un libro. Questo è un libro. Sono Montedolio. No, sono Oliva. Buono questo, eh. Questi ragazzi che sono qui hanno fatto il giro con me, ho fatto il giro con loro. Cioè, sono i testimoni per una Palestina diversa. Questo viaggio intenso in Palestina, perché bello, molto bello, perché tutti i palestinesi aprono le case, benvenuti, aprono le cucine, tirano fuori tutto quello che hanno, cucinano e quello che il meglio, tirano fuori il meglio di loro anche nella cucina, ma anche in senso, nel senso parlava anche delle difficoltà che sono state, che abbiamo insomma visto nel viaggio, le difficoltà in Palestina. Io per esempio non sono riuscita ad andare a Gerusalemme perché non ho potuto avere il permesso per andare a Gerusalemme, quindi sono andati da soli a Gaza, non siamo riusciti ad andare perché per andare a Gaza ci vuole dei permessi, e quindi le ricette nel libro sono da una ragazza che conosceva Silvia. Quindi insomma un viaggio attraverso la cucina palestinese, ma anche attraverso l'attualità, le difficoltà della vita per chi vive nella terra palestinese. Noi avevamo voluto raccontare la Palestina in maniera diversa di quello che si racconta, iniziare con le tragedie, il muro, tutto. Tutto questo c'è, c'è il muro, c'è l'occupazione, ci sono i posti di blocco, ci sono le difficoltà per andare all'università, a scuola, per uscire dalla Palestina, per entrare in Palestina. Però dentro questa Palestina ci sono anche delle cose belle. Ci sono le ricette ai datteri, i dolcetti di Abed, il tè alla salvia, anche cose meno conosciute, no? Sia della cultura e della cucina che anche della vita quotidiana dei palestinesi. Certo, infatti volevamo raccontare che si vive, c'è un popolo che è comunque aperto alle persone che vengono da fuori, aperto anche a dare quello che c'ha a raccontare la sua vita. Tra l'altro si racconta anche, come dicevamo, delle difficoltà dei palestinesi, in particolare leggo per quanto riguarda Betlemme, l'agricoltura e la pastorizia hanno delle difficoltà in questa zona perché non c'è l'acqua, si ha difficoltà a procurarsi l'acqua con cui poi irrigare i campi, e poi dei palestinesi hanno anche avuto la confisca delle proprietà. E questo sì, questo non solo a Betlemme, questo a Hebron, questo anche al nord, a Kalkilia, a Tulkarem, a Gerico. Il problema dell'acqua ce l'abbiamo in tutta la Palestina perché non abbiamo l'accesso libero all'acqua, tutto in mano agli israeliani, e le colonie hanno più diritto all'acqua che noi. Infatti andando a Gerico si vedono le coltivazioni israeliane, le coltivazioni palestinesi, quelle israeliane tutte belle, verdi, c'hanno l'acqua e tutto, ma quelli palestinesi erano poveri, meno belli di quelle israeliane perché non c'è acqua, e poi anche c'è il problema della confisca dei terreni, della difficoltà di arrivare ai terreni palestinesi. Contadini molto spesso devono attraversare le colonie o posti di blocchi per andare nelle loro terre, quindi tante volte sono chiusi i posti di blocco, quindi non possono entrarci, e non parliamo delle terre che sono state divise proprio dal muro. Di difficoltà di questo genere ci sono tantissime, ma i contadini palestinesi comunque continuano a coltivare il loro terra nonostante le difficoltà che si continua a vivere, perché è la nostra terra e bisogna insomma salvarla, e poi bisogna mantenere anche la cultura che fa parte della nostra identità, le nostre coltivazioni, perché da queste coltivazioni nascono i piatti che siamo insomma fieri a raccontarli al mondo, attraverso il libro, attraverso il film, attraverso i piccoli filmati che si fanno di ricette, insegnando ricette al mondo in varie lingue. C'è anche una questione che riguarda i lavoratori palestinesi. Quanto è uno stipendio di un lavoratore in palestinese, un impiegato, e quanto è invece lo stipendio di un lavoratore di Israele? Dipende, però c'è una differenza molto ampia, ecco, tra i due stipendi dei lavoratori sia palestinesi che israeliani. La prossima volta verrete a cena da noi. Sentirete il mio caviale alla cuillère, sono certo che vi piacerà. E Florence ci preparerà la sua macedonia con vodka e acquavite. Sì, sì, sì, sì. La sua sensibilità si accorda con la sua coscienza umanitaria. Ma se lei vuole rifiutare le idee acquisite, allora bisogna che le sostituisca con una morale personale. Raffaele. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little and let your poor. Risvegli. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro! That's the story of, that's the glory. Rientriamo in studio con Fida Abouhamdia, che è una delle autrici di Pop Palestine, questo libro di viaggio e di ricette attraverso la Palestina. La Palestina più pop, no? Fida. C'è profumo di cardamomo, profumo di cumino nel vostro libro. Ci sono molte ricette che sono anche replicabili per chi volesse acquistare il libro. Può così destreggiarsi a cercare di fare a casa alcune di queste ricette se riesce a trovare gli ingredienti, ma ormai insomma si trovano anche nei negozietti nelle nostre città. Quali sono le ricette che sono più caratteristiche di alcune zone? Parliamo di caratteristiche delle città, ad esempio Hebron, c'è il kedra. Kedra è un piatto tipico di quella città di Hebron. E poi i triangolini di spinaci si fanno in tutta la Palestina, però a Hebron si mette la curcuma nell'impasto, quindi sono gialli. E poi c'è a Gaza, ad esempio, ci sono la Somalia, la Romania, sono piatti caratteristici, sono diventate di quelle città, ma all'origine sono piatti di Jaffa, e quindi i profughi palestinesi che sono stati costretti a lasciare le loro case a Jaffa e andare a vivere nei campi profughi a Gaza hanno riportato queste ricette e quindi sono diventate ricette di Gaza. Arhalla c'è di tutto, il Maftul anche c'è a Gaza. Abbiamo fatto il falafel, ci sono in tutte le città, ma ad esempio siamo andati a Jenin perché a Jenin ci hanno parlato di questo ristorante dove fanno il falafel buonissimo, e quindi siamo andati lì e infatti era buonissimo, particolare perché nell'impasto metteva la cipolla tagliata. <S- <S- Insalata Fattoush. Caratteristica del Fattoush è un ingrediente speciale, la pita, pane arabo, tostato o leggermente fritto. Ingredienti: 2 piadine di pane arabo tostato al forno, 1 bicchiere di grano spezzato, burgol, 1 bicchiere di succo di limone, 1 mazzetto di prezzemolo, 1 mazzetto di menta, 4 pomodori da insalata, 1 cespo di lattuga, 1 cipolla, 1 bicchiere di olio di oliva, sale quanto basta. In una insalatiera mettete pane tostato a pezzi, prezzemolo, la lattuga tagliata finemente, menta, pomodoro a pezzettini, olio in abbondanza, limone e sale. Amalgamare bene tutti gli ingredienti e servire dopo aver fatto riposare in frigo 2 ore. Insomma, ogni città aveva le sue caratteristiche, le cose buone. A Gerico, ad esempio, i datteri, molto famosa, e quindi lì abbiamo chiesto ricette che si fanno con i datteri, e poi è stata la scoperta del atayef con i datteri e un po' di cannella. Quindi io ero abituata sempre a mangiarli o con il formaggio o con le noci, le nocciole, insomma la frutta secca. Invece la frutta secca, ma non i datteri, invece con i datteri ho scoperto una cosa strepitosa. La ricetta potrebbe sembrare difficile, ma rifare in casa le gelatine di Abed è semplice e soprattutto di grande soddisfazione, vista la delizia e l'originalità di questi dolcetti buoni e divertenti. Ingredienti: 400 g di zucchero, 300 ml di acqua, 100 g di amido di mais, mezzo limone spremuto, essenza naturale di rosa, 30 g di zucchero a velo e 30 g di amido di mais o 60 g di farina di cocco per ricoprire le gelatine. Per prima cosa si dovrà preparare lo sciroppo mettendo a cuocere in un pentolino lo zucchero insieme a 150 ml d'acqua e al succo di mezzo limone. Appena lo sciroppo bolle, abbassare il fuoco e far andare per 15 minuti girando di frequente. Nel frattempo, preparare la gelatina di amido mescolando in una pentola capiente e a bordi alti l'amido di mais con 150 ml di acqua. Mettere la pentola sul fuoco basso continuando a mescolare fino a ottenere un composto denso e gelatinoso. A questo punto si potrà versare molto lentamente lo sciroppo di zucchero nella pentola insieme alla gelatina di amido, mescolando bene, se necessario con una frusta, e lasciando sobbollire il tutto per circa 30 minuti. Aggiungere poi l'essenza di rose e lasciare ancora cuocere per 10 minuti. Cospargere il fondo di una teglia con farina di cocco oppure amido di mais unito a dello zucchero a velo. Versare sopra il composto velocemente perché tende subito ad addensarsi e distribuirlo bene aiutandosi con una spatola. Cospargere la superficie di nuovo con farina di cocco oppure amido di mais unito a dello zucchero a velo e lasciar riposare per qualche ora. Quando il composto sarà freddo e compatto, tagliarlo a quadratini usando un coltello leggermente unto d'olio. Mescolare le gelatine e, se necessario, aggiungere altro cocco o amido e zucchero. Lei, Fida, dove abita? Da dove la stiamo ascoltando? Allora, adesso mi state ascoltando da Ramallah. Vivo in realtà tra l'Italia e Ramallah, tra Padova e Ramallah. Tra Padova e Ramallah, perché sì. A Padova c'è una parte della sua vita e del suo lavoro. Sì. Fida, lei si è trasferita a Padova e vive tra Ramallah e Padova per lavoro. Com'è la vita in Italia per una persona che arriva dalla Palestina? È bella. Io in Italia, a Padova, sono dal 2004. E si trova bene? Trovo bene perché, insomma, ho vissuto con questa famiglia che è diventata dopo come mia famiglia, infatti sono i nonni di mia figlia, ci sentiamo sempre, ecco, che amo, che voglio bene, e quindi mi piace sempre tornare. Per me, oggi sto pensando a togliermi l'Italia, ecco, ma non l'Italia come togliere l'acqua a un pesce. E questo, sì, sono delle persone di Padova che mi hanno aiutata e ho vissuto con loro tanti anni e ancora, e sono i nonni di mia figlia. Li ho incontrati nel 2004, cercavo casa, cercavo un posto dove posso alloggiarmi come studentessa. Loro hanno detto che loro hanno una camera vuota dove posso andarci, e io ho detto sì. Per un anno dovevo andare, invece quest'anno è diventato fino adesso. Sono stata molto fortunata, ecco. La cucina palestinese viene suddivisa in base a tre regioni principali. Quella della Galilea è molto simile al Libano. In Cisgiordania i cibi sono molto pesanti e diversificati e i piatti tipici contengono riso, pane non lievitato e carne. La striscia di Gaza, essendo in prossimità del mare, propone una cucina basata sul pesce. Presenta molte influenze egiziane. Gli ingredienti solitamente utilizzati nella cucina palestinese sono pesce, carne di pollo e verdure. La frutta fresca e le arachidi sono utilizzate nella cucina quotidiana, così come le diverse varietà di pane sfornate, cioè la pita, il kubz e il markuk. Con la carne vengono spesso servite insalate e salse, ricavate da verdure o dai ceci, come ad esempio l'hummus, una sorta di purè di ceci, il baba ganoush, sformato di melanzane, o la panna acida. Il tenero è una bevanda consumata nell'arco della giornata, accompagnato da dolci come il baklava o l'alva. La tradizione palestinese in cucina consiste nei seguenti cibi: le mese o masa, una varietà di antipasti come l'hummus, il baba ganoush servito con un formaggio molto duro, l'aknavi, il rumania, uno stufato di verdure con semi crudi di melograno, melanzane e pasta di semi di sesamo, aglio, peperoncino, cipolle e lenticchie, il fucarit adas, lenticchie cotte lentamente con delle erbe, fiocchi di peperoni rossi, zenzero e aglio. Vi consiglio questo libro, un racconto di una Palestina diversa, popolare, vista dall'interno della cucina, delle case dei palestinesi o dei ristoranti, l'occasione per conoscere attraverso delle ricette la cultura e l'aspirazione del popolo palestinese. Grazie a Fida Abu Amdia, grazie e buon lavoro. Grazie tante. يا ليلة بالمشاعر بيمتي ليا يا وجهها يا طيري وتبو النجم سهي يا ليلة بالمشاعر بيمتي ليا يا نجومك فوق سهلي في قلب يطوي غني يا نجومك يا نجومك يا نجومك يا طيوفها بدر بيملى للقلب فوق جبينك يا صافي يا يطوي ليا Grazie per essere stati con noi all'ascolto di questa puntata di Indovina chi viene a cena. Questa sera è venuta a cena da noi un ospite di origini palestinesi, adottata, come avete sentito, dalla città di Padova, che ci ha raccontato questo libro, Pop Palestine, viaggio nella cucina popolare palestinese. Io ve lo consiglio in libreria. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre sulle frequenze di Radio 24 e sulle 24 ore. Grazie a tutti per l'ascolto. Da Valentina Furlanetto è tutto. Ciao. You've got to give a little, that's the glory of love.